giù. La nave arranca, la nave stanca, non ne può più. E i marinai giù nella stiva dormono un po', cercando donne sotto le palme dai loro blocchi. Nella tempesta sopra la cresta dell'onda sa.